Sorge in lunge alle cristiane tende, tra solitarie valli alta foresta, foltissima di piante antiche orrende, che spargono d'ogni intorno un'ombra funesta. Qui nell'ora che il sol più chiaro splende, e luce in cielo prescolorita e mesta, qual in nubilo ciel dubbia si vede, se Dio la notte fosse da lui succede. Ma quando parte il sol qui tosta d'ombra notte, nube, caligine d'orrore, che rassembra infernal, che gli occhi ingombra di cecità, che impiedita mai il core, né qui greggio talmente maschero. Sorge non lunge alle cristiane tende, tra solitarie valli alta foresta, foltissima di piante antiche orrende, che spargono d'ogni intorno ombra funesta. Qui nell'ora che il sol più chiaro splende, e luce incerta e scolorita e mesta, qual in nubilo ciel dubbia si vede, se il dì alla notte o se la lui succede. Ma quando parte il sol qui tosto ad ombra, notte, nube, caligine ed orrore, che rassembra infernal, che gli occhi ingombra di cecità, che impiedita il core, né qui gregge od armenti ai paschi all'ombra, guida bifolco mai, guida pastore, né ventra peregrin se non smarrito, ma lunge passa e la dimostra a dito. Per lungo disusar già non si scorda, dell'arti crude il più efficace aiuto, e so con lingua anch'io di sangue lorda quel nome proferir grande e temuto, a cui né dite mai ritroso sorda, né trascurati ubbidir fu pluto, che sì, volea più dir, ma intanto conobbe che seguito era Lucano. Thank you. cui s'aduna le streghe ed il suo vago con ciascuna di lor notturno viene. Vien sovri nembie chi d'un fero drago e chi forma d'unir chi informe viene con cini infame che fallace imago solo all'ettar di desiato bene a celebrar con pompe immonde e sozze i profani conviti e l'empie nozze. Così credeasi, ed abitante alcuno dal fero bosco mai ramo non svelse, mai franchi il violar, perché il soluno somministrava lor macchine celse. Or qui sen venne il mago, e l'opportuno alto silenzio della notte scelse, della notte che prossima successe, e suo cerchio formovvi e i segni impresse. E scinto e nudo un pie nel cerchio accolto, mormorò potentissime parole, girò tre volte all'oriente il volto, tre volte i regni, ove declini il sole, e tre scosse la verga un buon sepolto, trar della tomba e dargli il moto sole, e tre col piede scalzo il suol percosse, poi con terribil grido il parlar mosse. Udite, udite voi che dalle stelle precipitar giù i folgori tonanti, si voi che le tempeste e le procelle muovete, abitator dell'aria erranti, come voi che alle inique anime felle, ministri siete degli eterni pianti, cittadini d'Averno, or qui vi invoco, e te, signor dei regni empi del fuoco, per lungo disusar già non si scorda dell'arti crude il più efficace aiuto. E so col lingua anch'io di sangue lorda quel nome proferir grande e temuto a cui ne dite mai ritroso sorda né trascurato in ubbidir fu Pluto che sì volea più dir ma intanto conobbe che seguito era un canto. Alberghe d'erra, parte di quei che son dal fondo usciti, caliginoso e tetro della terra. Lenti e del gran divieto anco smarriti, che impedì loro il tratterlarmi in guerra, ma già venirne qui lor non si toglie, e nei tronchi albergare, e tra le foglie. Parte di quei che son dal fondo usciti, caliginoso e tetro della terra, lenti e del grande piato anco smarriti, che impedì loro il trattar l'armi in guerra. Ma già venirne qui lor non si toglie, e ne tronchi albergare e tra le foglie. Thank you. Esce allora della selva un suon repente che parri un bombo di terreno che treme, e il mormorar degli austri in lui si sente, e il pianto d'onda che fra scogli geme, come rugge il leon, fischia il serpente, come urli il lupo e come l'orso freme, vodi e vodi le trombe, vodi il tuono, tanti e si fatti suoni, esprime un suono. In tutti allora si impallidir le gote e la temenza a mille segni apparse, né disciplina tanto ragion pote così indigir innanzi o di fermarse, che l'occulta virtù che li percote sol le difese loro anguste e scarse fuggono al fine, e un dessi in cotal guisa, scusando il fatto, il pio Buglion n'avvisa: Signor, non è di noi chi più si vante troncar la selva che le si guardata, ch'io credo e giurerei che in quelle piante abbia la regia sua Pluton traslata, ben altre volte più d'aspro diamante, ricinto il cor chi intrepido la guata, né senso va a colui ch'udir s'arrischia come tonando insieme rugge e fischia. Stende le fiamme torbide e fumanti, e ne cinge quel bosco e l'assicura, ch'altri gli alberi suoi non tronchi e schianti. Le maggiori sue fiamme hanno figura di castelli superbi e torreggianti, e di tormenti bellici ammonite le rocche sue questa novella dite. Esce allor della selva un suon repente che parri un bombo di terren che treme, e il mormorar il pianto d'onda che fra scogli geme, come rugge il leon, fischia il serpente, come urli il lupo e come come l'orso freme, vodi e vodi le trombe, vodi il tuono, tanti e si fatti suoni, esprime un suono. Spente del cielo ogni benigna lampa, signoreggiano in lui crudeli stelle, onde piove virtù che in forme stampa l'aria d'impression maligne e felle. Cresce l'ardor nocivo e sempre avampa, più mortalmente in queste parti, in quelle, a giorno reo, notte più rea succede, e di peggior di lei dopo lei vede. Vedi le membra de guerrier robuste, cui nel cammin per aspra terra preso né ferrea salma onde gir sempre onuste, né domaferro alla lor morte inteso corri sulute e dal calor aduste giacciono a sé medesimi inutil peso e vive nelle vene occulto fuoco che pascendo le strugge poco a poco. Langue il corsier, già si feroce è l'erba che fu suo caro cibo a schifo prende, vacilli il piede infermo e la superba cervice di ansia or giù dimessa pende, memoria di sue palme più non serba, né più nobil di gloria amor l'accende, le vincitrici spoglie e i ricchi fregi, par che quasi vil somo di dispregi. Languisci il fido cane ed ogni cura del caralbergo e del signor oblia, giace distese dall'interna arsura, sempre anelando aure novelle in via, ma s'altrui diede il respirar natura, perché il canto del cor temprato sia, or nullo poco refrigerio nave, si quello onde si spira e densi grave. Così languia la terra, e in tale stato e grigio ceanzi miseri mortali, e il buon popol fedel già disperato di vittoria temea gli ultimi mali, e risonar s'udia per ogni lato universal lamento in voci tali, che più spera o freddo o che più bada, sì che tutto il suo campo a morte cada. Padre, signor, s'al popol tuo piovesti già le dolci rugiade entra al deserto, s'a mortal mano già virtù porgesti romper le pietre e trar del monte aperto un vivo fiume, o rinnovella in questi gli stesse esempi e sineguale il merto, adempi di tua grazia i lor difetti e giovi lor che tuoi guerrieri sian detti. Già per virtù del sole in alta ascese, ma giù del ciel che tutta apre e diserra le porte sue, veloci in giù discese, ecco notte improvvisa il giorno serra nelle ombre sue, che d'ogni intorno astese segue la pioggia impetuosa e cresce il rio, così che fuor del letto nasce, come talor nella stagione estiva, se dal ciel pioggia desiata scende, stuoldani tra loquaci in secca riva, col rauco mormorar lieto l'attende, e spiega l'ali al freddo umor né schiva alcuna, di bagnarsi in lui si rende, e lave in maggior fondo e si raccoglia, si tuffa e spegne la sedata voglia, così gridando la cadente piova, che la destra del ciel pietosa versa, lieti salutan questi a ciascun giova, la chioma verne nonché il manta spersa, chi bene vetri e chi negli elmi approva, chi tien la manna e la frescondi immersa, chi se ne spruzzi il volto e chi le tempie, chi scaltro miglior uso i vasi in empie, cessa la pioggia al fine e torna il sole, ma dolce spiega e temperato il raggio, pieno di maschio valor siccome sole, tra fin d'aprile e il cominciar di maggio, o fidanza gentil, chi Dio ben cole, l'aria sgombrar d'ogni mortal oltraggio, cangiare alle stagioni ordine e stato, vincer la rabbia delle stelle e il fato. Nella stagion canco non cede libero ogni confin la notte al giorno, ma all'oriente rosseggiar si vede ed anco il ciel d'alcuna stella adorno. Quando ei drizzò per l'oliveto il piede, con gli occhi alzati contemplando intorno, quinci notturne e quindi mattutine, bellezze incorruttibili e divine. Fra se stesso pensava, o quante belle luci il tempio celeste in sé raguna. Al suo gran carro il dì laurate stelle spiega la notte e l'argentata luna, ma non è chi vagheggi o questo o quelle, e miri a noi, torbida luce bruna, con girar d'occhi, un balenar di riso scopre in breve confin di fragil viso. Passa più oltre e ode un suono intanto che dolcissimamente si diffonde. Vi sente d'un ruscello il roco pianto e il sospirar dell'aura infra le fronde e di musico cigno il flebile canto e l'usignol che plora e gli risponde organi e cetre e voci umane in rime tanti e si fatti suoni un suono esprime. Il cavalier, pur come gli altri avviene, n'attendeva un gran tuon d'alto spavento e vode poi di ninfe e di sirene, d'aure, d'acque, d'augei, dolce concento, onde meravigliando il pier ritiene, e poi se va tutto sospeso e lento. E fra via non ritrova altro divieto che quel d'un fiume trapassante cheto. Passa più oltre e ode un suono intanto che dolcissimamente si diffonde. Vi sente d'un ruscello il roco pianto e il sospirar dell'aura infra le fronde e di musico cigno il flebile canto e l'usignol che plora e gli risponde organi e cetre e voci umane in rime. Tanti e si fatti suoni un suono esprime. Thank you. fermo il guerrier nella gran piazza affisa, a maggior novitate allor le ciglia. Quercia gli appar che per se stessi incisa apre fecondi il cavoventre figlia, e nasce fuor vestita in strana guisa ninfa d'età cresciuta, o meraviglia. E vede insieme poi cent'altre piante, cento ninfe produr dal seme pregnante. Quai le mostra la scena, o quai dipinte, talvolta rimirianda e boscarecce, nude le braccia e l'abito succinte, con bei coturni e con disciolte trecce, tali in sembianza si vedean le finte figlie delle selvatiche cortecce. Se non che invece d'arco di faretra, chi ti è leuto e chi viola o cetra. E cominciar costor danze e carole, e di se stesse una corona ordiro, e cinsero il guerriere siccome sole, esser punto rinchiuso entro il suo giro, cinser la pianta ancora, e tai parole nel dolce canto lor da lui sudiro. Ben caro giungi in queste chiostre amene, o della donna nostra amore e spene. Già nell'aprir d'un rustico sileno meraviglia vedea l'antica etate, ma quel gran mirto dall'aperto seno immagini mostrò più belle e rade. Donna mostrò ch'assomigliava a pieno nel falso aspetto angelica beltade. Rinaldo guata e di vedergli a viso le sembianze d'Armida e il dolce viso. Quella lui mira in un liete dolente, mille affetti in un guardo appaion misti, poi dice: io pur ti veggio e finalmente pur ritorni a colei da chi fuggisti, a che ne vieni a consolar presente le mie vedove notti e giorni tristi. O vieni a m'aver guerra di scacciarme, che mi celi il bel volto e mostri l'arme. Giungi amante o nemico, il ricco ponte io già non preparavo ad un nemico, né gli apriva i ruscelli fior la fonte, sgombrando i dumi e ciò capassi è intrico. Togli quest'elmo mai, scopri la fronte, e gli occhi agli occhi miei s'arrivi amico, giungi i labbri alle labbra, il seno al seno, porgi la destra alla mia destra almeno. Seguia parlando e in bei pietosi giri volgevi lumi e scoloria i sembianti, falseggiando i dolcissimi sospiri e i suavi singulti e i vaghi pianti, tal che incauta pietate a quei martiri intenerir poté agli aspri diamanti. Ma il cavaliero, accortosi, non crudo, più non v'attende e stringe il ferro ignudo. Vassene al mirto. Allora colei s'abbraccia al caro tronco e si interpone e grida: «Ah, non sarà mai ver che tu mi faccia oltraggio tal che l'arbor mio recida! Deponi il ferro dispietato, o il caccia pria nelle vene all'infelice Armida. Per questo sen, per questo cor la spada solo al bel mirto mio trovar può strada». Egli alza il ferro e il suo pregar non cura, ma colei si trasmuta o nuovi mostri, siccome avvien che tu un'altra figura, trasformando repente il sogno mostri. Così ingrossò le membra e tornò scura la faccia, e vi sparirono gli amori e gli ostri. Crebbe in gigante altissimo e Sifeo, con 100 armate braccia, Umbriareo, 50 spade in pugno e con 50 scudi risuona, e minacciando freme ogni altra ninfa ancor d'arme s'ammanta, fatta un ciclope orrendo, ed ei non teme, raddoppia i colpi alla difesa pianta, che pur come animata ai colpi geme, sembran dell'aria i campi stigi, tanti appaiono in lor mostri e prodigi. Giatosa di manna era ogni fronda e distillava delle scorze il mele, e di nuovo s'udia quella gioconda strana armonia di canto e di querele. Ma il cor manca e cigna l'aura, l'onda facea tenor, non sa dove si cede, non sa veder che formi umani accenti, né dove siano i musici strumenti. Quella lui mira in un liete dolente. Mille affetti non guardo appaion misti. Poi dice: «Io pur ti veggio e finalmente pur ritorni a colei da chi fuggisti. A che ne vieni a consolar presente le mie vedove notti e i giorni tristi? O vieni a mover guerra, a discacciarmi, che mi ceri il bel volto e mostri l'arme? Giungi amante o nemico? Il ricco ponte io già non preparava ad un nemico, negli aprivi ruscelli, i fior, la fonte, sgombrando i dumi e ciò capassi e intrico. Togli quest'elmo mai, scopri la fronte e gli occhi agli occhi miei, s'arrivi amico, giungi labri alle labbra, il seno al seno, porgi la destra alla mia destra, almeno». Thank you. Sopra il turbato cielo, sotto la terra tuona, e fulmina quello e trema questa. Vengono i venti e le procelli in guerra, e gli soffiano al volto aspra tempesta, ma pur mai colpo il cavalier non erra, né per tanto furor punto s'arresta, tronca la noce. E noce, e mirto parve, qui l'incanto fornì, sparir le larve. Tornò sereno il cielo e l'aura cheta, tornò la selva al natural suo stato, non d'incanti terribile né lieta, piena d'orror, ma dell'orror innato. Ritenta il vincitor s'altro più vieta, che esser non possi il bosco o mai troncato. Poscia sorride e fra sé dice: o vane sembianze e folle, chi per voi rimane? Thank you. Thank you.